beat. Mojo vengan bro basata su ognuno sopo vita vida gomanzata mo e da xica già venga voto stile sindo mo come se senda contro la de venga a sfazione vido un cognome du ognone e pavone con domingo che in testa mi fa rullante cassa questo suono mo è quality basta chido chi dem si provenienza quality wow dimmi che ti piace quando viene da che si e nanze sap no quando viene mo quality basta dem si dimmi che ti piace qui mo e gli alzelle mani c'è ma sta sindem dalla macchina o in da casta dopo non si sa per ma sindem buone venile venale mo originale quality bastard del flow dimmi che ti piace sembra mo qui mo metto un anno sindem su ognuno mo su di un flow mo già vengono provo stata from the quality lì sindem rino mo is the MC.